Letture di Radio 24. Nella città di Milano, i livelli medi delle polveri sottili sono tripli rispetto ai limiti di legge e la situazione sembra essere destinata a peggiorare. Un problema per le generazioni future. Per questo, Giuseppe Di Piazza, su 7, si domanda: che hanno fatto di male i nostri figli? Una generazione di minorenni che nessuna telefonata notturna potrà salvare. Che hanno fatto di male i nostri figli? Di quali colpe si sono macchiati per essere puniti così severamente? Sulla durezza della pena non c'è alcun dubbio. Li costringiamo a crescere in città avvelenate, respirando polveri tanto sottili quanto pericolose. PM10, PM2,5, sigle che oggi indicano problemi e che per domani promettono solo guai. Queste polveri si depositano nel loro sistema respiratorio, pronte a scatenarsi contro corpi giovani e indifesi. Non sappiamo ancora che effetti avranno queste particelle sui loro organismi e, per la verità, neanche sui nostri. Il test che abbiamo compiuto con l'ausilio scientifico dell'Università Bicocca di Milano conferma che la situazione è completamente fuori controllo, almeno nella capitale del Nord. I valori medi sono tripli rispetto ai limiti di legge e questo sforamento avviene ormai regolarmente. Si è bloccato il traffico per un paio di domeniche, misura tipica e, se presa in solitudine, pressoché inutile. L'unico rimedio è la pioggia. Ma si può vivere affidando la salute dei nostri figli alle previsioni meteo? Sarebbe necessario un piano antismog per tutta la pianura padana, vero epicentro dell'emergenza. Ma non c'è da avere molta fiducia. Il potere preferisce discutere di denaro e processi, di escort e ideologia. Qui c'è una generazione in pericolo. Una generazione di minorenni che nessuna telefonata notturna potrà salvare. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Generazione Smog di Giuseppe Di Piazza, da 7 di questa settimana. Letture di Radio 24. Gian Antonio Stella, nel suo editoriale sul Corriere della Sera del 24 febbraio, dice come la rivolta in Libia venga osservata dall'Italia pensando alle sole conseguenze che la rivoluzione potrebbe avere sul nostro paese. Ma non ci siamo solo noi, sostiene l'editorialista. Ma se si chiamassero Pedro o José e fossero bombardati da un golpista sudamericano? Se si chiamassero Pak o Koo e fossero mitragliati da un carnefice nordcoreano? Se si chiamassero Oya o Boris e fossero sgozzati da un nuovo macellaio cetnico? È il dubbio che rode a vedere come tanti politici italiani guardano al massacro dei libici facendosi una sola domanda. E noi? Certo, è ovvio che ci poniamo il problema di cosa succederà a casa nostra. Di più, è sacrosanto. Quanti disperati si rovescerebbero con i barconi sulle nostre coste se andasse tutto nel peggiore dei modi? Come potremmo gestire un'ondata migratoria mai vista? Riusciremo a essere insieme vigili guardiani di un filtro indispensabile e buoni samaritani al soccorso di una umanità sofferente? Cosa farebbero gli altri europei? Accorrerebbero a darci una mano o guarderebbero altrove lasciandoci nella peste? Sono domande doverose, imposte da questa specie di esplosione nucleare dagli esiti imprevedibili, deflagrata a poche decine di chilometri dai nostri confini. Lo studioso Khaled Fouad Allam si è spinto a scrivere sul Sole 24 Ore che la Libia potrebbe diventare, per la sua storia, per i suoi conflitti secolari, l'Afghanistan del Mediterraneo. Come potremmo non stare in guardia? Come potremmo non essere preoccupati? Eppure questa non può essere la sola, unica, esclusiva nostra preoccupazione. Non può ruotare tutto ossessivamente intorno a noi, perché laggiù in Libia, sotto i nostri occhi, a pochi minuti di volo dall'Italia, stiamo assistendo a un bagno di sangue che ci fermerebbe il fiato e ci strapperebbe grida di raccapriccio se solo le vittime di tanta ferocia repressiva non fossero arabi, berberi, islamici. Impastati tutti insieme, integralisti e laici, camelieri e architetti, beduini sahariani e ragazzi cresciuti col web che sognano solo la stessa libertà che hanno i ragazzi olandesi o americani. Abbiamo tra l'altro due responsabilità in più. La prima è quello che Ronald Reagan chiamava il cane di Tripoli e oggi sta azzannando rabbioso i suoi stessi cittadini. È stato fino a pochi giorni fa riverito e adulato, con minori o maggiori gradazioni di piaggeria, da un po' tutti i governi italiani. convinti che i vicini non si possono scegliere e in fondo per noi fosse meglio che l'Africa più vicina fosse schiacciata sotto il tallone di un po' più di duci muscolosi, piuttosto che esposta ai brividi pericolosi della democrazia. La seconda è riassunta in un motivetto sull'invasione della Libia del 1911, il cui prologo risuona spavaldo. Sbalorditi i musulmani stavano tutti a naso ritto, ma d'un tratto a capofitto bombe fuoco gli arrivò. Assediato e bombardato sia di sopra che di sotto, il vil popolo corrotto all'Italia s'inchinò. Ecco, un secolo esatto dopo la brutale conquista di quello scatolone di sabbia, dopo decenni di disprezzo per quelle genti inavvezze al lavoro, dopo le foto dei nostri plotoni d'esecuzione che fucilavano anche i ragazzini, dopo i campi di concentramento nel deserto della Sierte, dove Angelo Del Boca ha dimostrato che morirono decine di migliaia di donne, vecchi e bambini, abbiamo verso quei libici scesi nelle piazze per liberarsi di un dittatore capriccioso e feroce, dei doveri in più. È giusto che ci preoccupiamo anche per noi, ma non ci siamo solo noi. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Gian Antonio Stella, Egoismi e paure, dal Corriere della Sera di giovedì 24 febbraio. Tra pochi mesi, la genesi dei capolavori di John le Carré sarà consultabile da studenti, studiosi e curiosi. Lo scrittore ha deciso di lasciare il suo intero archivio letterario alla Bodleian Library, la biblioteca dell'Università di Oxford, dove David Cornwell, vero nome di Le Carré, ha studiato. La prima versione è a penna, punteggiata di cancellature, aggiunte a lato, scarabocchi, in una calligrafia ben leggibile. Poi sua moglie trascriveva tutto a macchina, e lui continuava a lavorarci, incollandoci sopra o graffettando all'originale strisce di carta con le correzioni. È il metodo John le Carré, con cui il più affermato autore di thriller del nostro tempo ha scritto 22 romanzi, tradotti in 36 lingue, in 50 anni di carriera, a partire da La spia che venne dal freddo. Ora la genesi di tutte le sue opere sarà consultabile da studiosi, lettori e curiosi. Lo scrittore ha deciso di lasciare il suo intero archivio letterario alla Bodleian Library, la rinomata biblioteca dell'Università di Oxford. Non l'ha scelta a caso. David Cornwell, vero nome di Le Carré, ha studiato a Oxford e a Oxford nacque l'ispirazione per George Smiley, la spia protagonista della Talpa e uno dei suoi personaggi più celebri, che passando accanto alla Bodleian, a un certo punto del romanzo pensa: «Io ho lavorato qui dentro». Le Carré poteva vendere i suoi manoscritti e la sua corrispondenza a un'università americana, come fanno molti scrittori, ma ha invece deciso di regalarlo, senza ricevere un soldo, alla sua alma mater. Con tutto il rispetto per le università americane, la Bodleian è l'istituzione dove credo che riposerò meglio, dice. Le prime 85 scatole di materiale hanno già lasciato l'ex fienile della fattoria della Cornovaglia, dove il romanziere vive e lavora. La sua voluminosa corrispondenza seguirà nei prossimi mesi. È un modo per capire come nascono le sue storie, commenta Richard Ovenden, vice direttore della biblioteca. Le Carré è uno scrittore vecchia maniera, che usa penna e inchiostro. Ha scritto a mano tutti i suoi romanzi in una caratteristica calligrafia e poi si vede come le sue idee si sono evolute nel tempo con il coinvolgimento di editori e redattori. Gli siamo enormemente grati, specie in un momento in cui, per i tagli ai fondi pubblici, la concorrenza con gli Atenei americani è impossibile per questo genere di cose. La Bodleian metterà l'intero archivio Le Carré sul web, rendendolo dunque accessibile a tutti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Vanno a Oxford tutti i segreti di Le Carré, di Enrico Franceschini, dalla Repubblica di venerdì 25 febbraio.